mi pare che il quadro che si snoda davanti ai nostri occhi, dire che è inaudito e dire poco, ma dobbiamo valutarlo con freddezza. Le regole democratiche di questo paese sono cambiate. Non si può più contare su alcuni diritti elementari dei cittadini che fino a poco fa potevano anche essere violati, ma non venivano messi in discussione. Sì, io mi trovo all'angolo con Viale Zara, una parte della gente prosegue per via Carlo Rosselli, quindi sta tornando verso Sturle, verso la stazione di Genova Quarta, un'altra parte maggioritaria sta salendo verso la collina dove mi trovo, stanno andando verso la Galleria Ferraris, però qui non, la gente è assolutamente senza istruzioni su quanto sta accadendo e su dove andare. Ci stiamo affidando al servizio sanitario del Genova Social Forum. Sono all'inizio, all'imbocco di Corso Italia, dove inizia a risalire. Si sono rischierati qui la polizia e la Guardia di Finanza anche per permettere, ma ci è voluta quasi una buona mezz'ora per permettere l'arrivo delle ambulanze. Ci sono 9 feriti, c'è una ragazza qui vicino a me che adesso stanno per caricare sulle ambulanze, anche se ci sono dei ritardi fortissimi per far arrivare le ambulanze. Questa è la prima che è riuscita ad arrivare qui a portare via 4 feriti, mentre altri 3 che erano più indietro sono già stati recuperati. Dopo essere stati feriti sono stati raggiunti da altri poliziotti e sono stati privati dei documenti, quindi sostanzialmente sono in stato di fermo, anche se poi nessuno si sta prendendo cura di loro da parte della polizia. Ospedale San Martino, in zona di Corso Europa, l'ultimo manifestante che ho visto arrivare era un signore sui 40-45 anni, molto robusto, che aveva sangue su tutta la testa e un taglio sopra l'orecchio sinistro. Un altro era un ragazzo arrivato poco prima, anche lui con la testa piena di sangue. A differenza di ieri, la polizia e i carabinieri sono all'esterno dell'ospedale, molto meno visibili. Mi hanno spiegato che il direttore sanitario ha fatto pressione perché non vuole che sia militarizzato il pronto soccorso. Ieri sera, alla fine, sono stati prelevati 25 ragazzi che erano qui ricoverati, tutti dai carabinieri. Insieme ad altre centinaia di manifestanti abbiamo dovuto lasciare Corso Italia, ci siamo dovuti spostare, abbiamo dovuto salire proprio a monte la città per evitare ulteriori violenze, quindi abbiamo percorso via Trento. Alcuni hanno anche ritirato le bandiere per non essere troppo visibili, perché sopra di noi di tanto in tanto passa l'elicottero, ma si prosegue. Mi trovo in Corso Italia, oramai è una carica che sta procedendo da quasi 800 metri, una specie di marcia. In realtà, in effetti, più che una carica, questo sembrerebbe una operazione di pulizia per comprimere quello che rimaneva dei manifestanti in questo tratto di Corso Italia all'indietro, verso il punto di partenza in sostanza. Tra loro e la prima fila dei manifestanti c'è una coltre di lacrimogeni e continuano per farli indietreggiare, a lanciare i lacrimogeni e a proseguono alla piccola corsa. Eravamo in corteo ormai da un'ora almeno, il corteo avanzava lentamente, saremmo stati circa a metà del corteo. Il corteo era lungo 6 km, noi saremmo stati a 3 km, più o meno a metà. A un certo punto, dal niente, io ho visto due tute nere, come le chiamano, e la polizia ha caricato, ma cioè il corteo era molto tranquillo, quindi hanno spaccato il corteo in due. Noi ci siamo proprio trovati di fronte alla polizia, siamo scappati indietro. Indietro 100 metri hanno fatto una carica e quindi ci siamo trovati in mezzo a due blocchi di polizia. Lì c'è stato corri di qua, corri di là, poi sono arrivati i lacrimogeni per cui non si vedeva più niente. Noi eravamo contro un muro, si è aperta la porta di un condominio, siamo scappati tutti dentro, saremmo entrati almeno in 30-40 persone. Saremmo stati dentro un condominio 10 minuti. Poi davanti al condominio le acque si sono calmate, per la strada non c'era più niente, solo rottami. Il mio amico è stato il primo a uscire, io l'ho visto, è andato fuori così dicendo: noi siamo ingabbiati qua dentro, vorremmo andarcene, come possiamo fare? Ma non avevamo fatto nessuno, cioè avevamo tutte le mani alzate. Mi sono girato per tranquillizzare le mie amiche, c'era una che piangeva eccetera, Quando mi sono tornato a girare lui non c'era più, l'avevano preso da una parte e l'hanno pestato. Mi hanno tirato fuori in 10 e hanno cominciato a calci, pugni, manganellate. Mi sono messo la mano sulla testa, era piena di sangue, e mi hanno fatto inginocchiare, pezzo di merda, se ti muovi ti ammazzo, con l'affare dei lacrimogeni in testa proprio. Quando continuava a grondare sangue, c'era il sangue lì, ah guarda, guarda il pezzo di merda, ha poche piastrine, guarda come non si coagula. E se ti muovi ti ammazzo comunque. Sempre verso il mare, spostati un po' rispetto a Corso Italia, perché lì evidentemente non c'è nessuna possibilità di stare. Adesso sembra che il tentativo della polizia sia quello di cercare di far pagliare il più possibile tutta la gente che ha partecipato al corteo. In questo momento io mi trovo in una delle piccole viette che salgono verso Monte, si tratta di via Quarnaro, ci sono diverse persone qua. Adesso qua la situazione è un po' paradossale, perché ovunque si vada arrivano i lacrimogeni, arriva la polizia e la gente quindi scappa dalla parte opposta. In questo momento alcune persone salgono per una salita che va su verso i monti, altri cercano di raggiungere stazione Brignone. La maggior parte di queste persone qui in particolare sono ragazzi, ragazze, signori, signore, anche anziani, non connotati in particolare maniera, vestiti normalmente, senza bardature, senza oggetti per colpire. La maggior parte di queste persone in questo momento vorrebbe sparire, vorrebbe semplicemente levarsi di mezzo, vorrebbe capire però come fare, come togliersi di mezzo. C'è una grandissima stanchezza, cioè qui ci sono tante persone che sono veramente stanche di scappare, di avere paura, di momenti di panico, vogliono semplicemente andarsene a casa, perché sono tutti molto molto stanchi di tutto questo. Siamo donne, anziane, io ho 60 anni, un compagno è venuto con 4 bambini e tutto è andato abbastanza bene fin quando siamo arrivati in Corso Italia. Ci hanno chiesto i compagni che erano avanti di fermarci, ci siamo bloccati sulla strada, ci siamo seduti per terra, abbiamo tenuto le mani in alto e dopo un quarto d'ora ci siamo dovuti alzare e nel tentativo di scappare ci siamo schiacciati contro il muro e ci hanno caricato violentissimamente con lacrimogeni o spray al peperoncino, non lo sappiamo, non abbiamo capito cosa fosse, e ci hanno brutalmente fatto risalire in una strada laterale che adesso stiamo percorrendo con tutta la polizia che c'era intorno. Ci hanno trattati in una maniera che credo nemmeno i Black Bloc li hanno trattati così in questi giorni.